Buongiorno Nicoletta e Debora, e un saluto al dottor Gargiulo dalla calda salata a Cagliari. Ho un giro visa che ci vuole la terrametrica. Così andiamo a salutare Debora che ci chiama da Roma. Sono circondata da Debora, buongiorno. Oggi sei assediata, sì. Allora, così, gli è svenuto il muscolo a Gianpietro. Intanto senza alcun pudore tutti i nostri ascoltatori ci stanno dando la misura del loro giro visa. Sì, si mettono in mutande. Con grande coraggio, non ci mandate le foto per carità. Cuore e denari. Vedo nero coi miei occhi, vedo nero e non c'è pace per me. Nero ne gira purtroppo un po' troppo nel nostro paese. Allora, il padrone di casa ti costringe a pagare l'affitto in nero. Tu, inquilino, lo puoi denunciare e lui non solo dovrà farti un regolare contratto, ma ti farà pagare anche un canone ribassato addirittura dell'80% in meno rispetto ai canoni di mercato. Insomma, chi la fa l'aspetti, almeno così è stato fino ad ora. Adesso le cose sono cambiate perché con un tratto di penna proprio venerdì scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva questo meccanismo, proprio volto a tutelare i diritti degli inquilini e a contrastare il nero. E adesso che cosa succederà a quanti hanno approfittato in questi 3 anni della possibilità e che quindi pagando un affitto in nero avevano denunciato il proprietario ottenendo così un canone stracciato? Perderanno tutti i benefici? Dovranno riformulare i contratti perdendo quindi il prezzo agevolato? E tra l'altro dovranno sedersi a un tavolo con un padrone di casa non molto ben disposto nei loro confronti dato che è stato denunciato. Insomma, vedono nero tanti inquilini italiani a cui la legge aveva fatto vedere un po' rosa. È vero, e per capire se gli effetti di questa pronuncia della Consulta saranno così drastici e dirompenti abbiamo chiesto aiuto al SUNIA, il sindacato degli inquilini. Da una parte abbiamo le associazioni dei proprietari immobiliari che hanno espresso grande soddisfazione per questa notizia e naturalmente li possiamo capire, hanno dovuto accettare di stipulare contratti a canoni stracciati. Più confusa è invece la posizione degli inquilini che cercano di capire cosa succederà adesso, i contratti in essere verranno dichiarati nulli o che cos'altro. Allora, buongiorno ad Aldo Rossi, segretario nazionale delle SUNIA, oltre che responsabile dell'ufficio legislativo di questa organizzazione. Bentornato a Cuore Denari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Voi in questi giorni avete commentato questa sentenza della Corte Costituzionale in maniera abbastanza negativa. Determina una gravissima situazione di vuoto normativo. Perché, Rossi? Ma è semplicissimo, sta anche nelle sue parole. Non voglio discutere la sentenza della Corte. Dico che la Corte ha dichiarato illegittima una norma che prevede una sanzione. Esattamente, no? Però in realtà il comportamento illegittimo rimane tale, cioè qui parliamo di un proprietario che ha affittato in nero e evaso il fisco. Tra l'altro la prima richiesta che noi abbiamo fatto è sapere dall'Agenzia delle Entrate dopo queste denunce che cosa è partito, per esempio in termini di recupero e di accertamenti rispetto ai proprietari di queste situazioni. Quindi è evidente che una nuova norma si impone. Certo. Questo è un dato di fatto. Il vuoto normativo c'è di fatto, ovvio. Perché altrimenti, perché questa legge, tra l'altro, senza fare un discorso troppo tecnico, questo decreto legislativo discendeva da una finanziaria addirittura del 2004 che dichiarava nulli i contratti non registrati. Quindi non è che questa è una norma che cadendo può dichiarare legittimi contratti che non lo erano per una precedente legge che ancora vige nel nostro. Ecco, lei ha fatto riferimento peraltro, Rossi, proprio al decreto legislativo da cui deriva poi questa sentenza della Corte Costituzionale, il numero 23 del 2011, quello che aveva introdotto la cedolare secca, della quale parleremo dopo nel corso della trasmissione. Intanto mi rivolgo agli ascoltatori che possono prendere subito in mano il telefono e comporre l'800240024. Raccontateci se avete fatto la scelta di denunciare, tra virgolette, il vostro padrone di casa perché vi obbligava a pagare in nero e come è andata a finire, anche se chiaramente dobbiamo mettere, tra virgolette, anche questo obbligo a pagare in nero perché chiaramente si può anche fare la scelta di trovare un'altra soluzione. In ogni caso la situazione sembra ribaltarsi. Cosa temete? Raccontateci anche quali altre difficoltà avete incontrato nel vivere in affitto, perché non sempre i rapporti con il padrone di casa sono idilliaci, sono tante le difficoltà che si riscontrano, dall'accordarsi su sul prezzo alla manutenzione della casa, la riformulazione dei contratti, senza contare il boom di sfratti. Le notizie sui giornali si rincorrono, che purtroppo negli ultimi anni ha interessato appunto questo boom tanti italiani. Chiamateci anche se state per firmare un contratto di affitto e avete dei dubbi. 800 24 00 24. Aldo Rossi rimane con noi oggi per rispondere alle domande dei padroni di casa e degli inquilini. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? E non pagano l'IMU perché non sono proprietari, nell'affitto perché a loro nulla è richiesto, anzi sono inquilini graditissimi delle nostre case. Parliamo dei nostri amici animali che fanno compagnia a 4 italiani su 10. Il più presente è il cane, subito seguito naturalmente dal gatto. Il dato emerge dal rapporto Italia dell'Eurispes. E voi? Avete un coinquilino, un cane, un gatto, un criceto, un pappagallino, un coniglietto nano, un merlindiano, un furetto? Avete insomma un amico peloso o pennuto che vi accoglie quando tornate a casa e che le zanzare non valgono, no? Magari, dai, di questo parleremo, perché sai che c'è una relazione tra zanzare, o meglio tra pappatacci e i nostri amici animali. Insomma, avete qualcuno che occupa un posto nel vostro cuore e nella vostra vita? Bene, insieme ai vostri beniamini siete gli ospiti d'onore della puntata di oggi. Il nostro numero verde è già a vostra disposizione. Parleremo dei vantaggi per il nostro benessere che questa convivenza comporta, ma anche degli eventuali rischi a cui ci espone. Vi aspettiamo per trattare questo tema dopo le 11:40, ma in studio abbiamo già la nostra ospite che è venuta a trovarci perché è anche un'ascoltatrice di Radio 24, e quindi noi l'abbiamo catturata anche nei nostri studi. L'abbiamo invitata ancora più volentieri, diciamo. La dottoressa Lorella Notari, veterinario comportamentalista e membro della ASETRA, che è un'associazione che si occupa di etologia e comportamento. Buongiorno. Buongiorno. Senza nessun amico a quattro zampe al seguito, purtroppo. No, ma noi li abbiamo messi naturalmente sulla pagina Facebook. Abbiamo messo la Emmona, che è il mio cagnone, il cane di Margherita, che lavora con noi a Radio 24, e naturalmente quello di Matteo Caccia, che è il grande Ugo. E io siete sono invitati... momentaneamente sprovvista, ma posso recuperare le foto dei miei gattini del passato, perché certo, ce le ho sempre nel cuore, oltre che in fotografia. Anche la dottoressa Notari ci metterà le foto dei suoi animali. Sicuramente. Con chi convive lei? Io convivo con Bianca, che ha 13 anni, è un golden retriever, con Willy, che ha 3 anni, è un, diciamo, un incrocio molto prestigioso, cioè ci sono dentro almeno una decina di razze, e con un gatto di taglia enorme che si chiama Noir, e un po' di pesci nella mia fontana in giardino. E possono mancare i pesci? Assolutamente no. Posso chiedere anche ad Aldo, ad Aldo Rossi se ha qualche inquilino peloso pennuto? Rossi. O squamoso? No, però occupandomi di questioni condominiali mi è capitato spesso, stamattina leggevo una sentenza. Non ce l'anticipi allora, perché poi abbiamo anche un avvocato esperto di condomini, visto che dovremo lanciare anche un'iniziativa del Sole, questa sentenza ci casca proprio a pennello questa mattina. Tornando al nostro tema, affitti, proprietari, rapporti con gli inquilini, a fronte di 13 milioni di famiglie che scelgono di avere fra le mura domestiche un inquilino peloso o pennuto e non pagante, circa il 39% della popolazione, circa appunto dicevamo, si attesta al 21,8% invece la quota delle famiglie italiane che l'affitto lo pagano e come, secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia. Molti con contratti regolari, accordandosi con il proprietario in modo chiaro e trasparente, tanti purtroppo invece in maniera non chiara o a volte totalmente irregolare, quindi con contratti in nero, per cui se si è in nero chiaramente non esiste contratto. Ed era proprio per combattere questo fenomeno che 3 anni fa era stata approvata questa norma contenuta nel decreto 23 del 2001, che permetteva di denunciare il padrone di casa ricevendo in cambio un canone agevolato. Rossi, ci ricorda come si era arrivati a questa possibilità e qual era il ragionamento che c'era dietro? Ci è arrivati in una forma che poi purtroppo proprio per la sua forma ha trovato i motivi della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, perché ricordiamo che la Corte Costituzionale è intervenuta nella questione di eccesso di delega del governo, non perché ha contestato. Ecco. Esatto, è entrata brevemente nel merito, ma in realtà il problema che è stato sollevato è questo: è un decreto legislativo. I decreti legislativi nascono da una delega che il Parlamento dice al governo: tu fai una serie di norme in cui devi inserire queste cose qua, più o meno, no? Come è successo per la delega fiscale nei giorni scorsi. Non c'era una specifica delega, ha ritenuto la Corte, su questa materia qui, anche se c'era un, come ha fatto notare l'Avvocatura dello Stato, un richiamo alle lotte al contrasto all'evasione fiscale, e il governo evidentemente da allora l'ha interpretata questa norma come una ipotesi concreta di contrasto, e per noi fu una norma positiva. Era il momento in cui si discuteva che tipo di tassazione applicare. No, mi scusi Rossi, tanto per sintetizzare, perché se no non arriviamo più. Si discuteva di che tipo di tassazione applicare ai proprietari di immobili e di garantire una tassazione più agevolata, no? E venne introdotta la cedolare secca. Certo. In quel decreto che introduceva la cedolare secca, che in quel momento abbassava al 21-19% le aliquote per i contratti liberi e quelli concordati, oggi quelli per i concordati ancora minore, si dava questo beneficio che era forte, perché è costato circa 1,5 miliardi al bilancio dello Stato. Perché si arrivò al 15. Si diceva: mettiti in regola, oggi è il 15, la cedolare secca. Sì. E il decreto casa in approvazione pare che lo porti al 10. Al 10, esatto, quindi ancora ottimo. Meglio. E quindi si diceva: chi non è in regola ha 2 mesi di tempo per mettersi in regola. Questo va detto, il 30 giugno del 2011, fino a quella data, chi non era in regola poteva mettersi in regola. E quindi c'era questa possibilità. Noi invitavamo tutti gli inquilini a fare una lettera al proprietario, certo, che si trovava in quelle condizioni, e dire: mettiamoci a un tavolo e facciamo un nuovo contratto, perché la legge in qualche modo gli dà anche un'agevolazione. Molte situazioni si regolarizzarono, naturalmente. La maggior parte non lo ha fatto. Dopo di questo, gli inquilini, in gran parte studenti, anche lavoratori migranti, o comunque in generale cittadini che avevano una casa in affitto in nero completo, cioè contratti neanche scritti, doppiamente nulli, quindi, oppure contratti scritti ma non registrati. Certo. Senta Rossi, adesso sentiremo le domande di Roberto da Parma, Giuseppe da Catania. Detto questo, oggi, secondo voi, che situazione nuova apre la sentenza della Corte Costituzionale? Chi ha stipulato il contratto? Una, nell'immediato ci vuole una norma di sanatoria, altrimenti assisteremo ad una proliferare di sfratti e i proprietari avrebbero diritto della situazione. La seconda, e comunque a un aumento degli affitti sproporzionato, non trattato, come diceva giustamente lei prima, in condizioni che sono ovviamente di forte debolezza dell'inquilino e anche di contrasto tra le parti. Diciamo aumento sproporzionato degli affitti, perché i proprietari tornerebbero chiaramente sui valori di mercato, visto che sono stati costretti, appunto. Allora, sorrido perché... La seconda cosa che volevo dire è che ci vuole una norma che colpisca nuovamente l'evasione, perché la Corte non è che ha detto che non si deve colpire l'evasione fiscale, altrimenti in Italia non facciamo capire la realtà. Ovvio che voi siete d'accordo, certo, però il tema è che la situazione è molto confusa. Che sentiamo? Io sto monitorando gli sms che arrivano al 349-238-6666. Un ascoltatore, Stefano, ci scrive: se la suocera rientra nel conto degli inquilini pelosi e non paganti, ecco. Dottor Rossi, secondo lei? Non lo so, bisognerebbe chiederlo al proprietario, però questo il genero, secondo me, è una parte interessante. Stefano, ecco, ma siamo arrivano già i messaggi per la dottoressa Notari, per i nostri amici animali a quattro zampe, pelosi o pennuti, che vivono nelle nostre case. Ma un ascoltatore inizia a raccomandarci: fate un appello di raccogliere sui marciapiedi le cacche. Eccola. E noi parleremo anche di questo, ma non di cacche. Ci vorrà parlare sicuramente Roberto di Parma, ma di affitti. Buongiorno a lei, benvenuto. No, anche perché io ero un vecchio ascoltatore di Salvadanaio, che reputavo ormai una trasmissione di servizio molto utile. Vabbè, ma l'abbiamo trasferita qua dentro, Roberto, non tema nulla. Io ringrazio infatti per stamattina. Io devo fare una domanda un po' tecnica. Io sono un proprietario di alcuni immobili e spesso sento appunto parlare di questo canone concordato, che adesso ha ulteriormente una ipotesi molto vantaggiosa per noi proprietari, che ci troviamo a confrontarci con IMU, altre tante tasse. Però io sinceramente non ho mai capito come poter accedere a questo canone concordato. E quindi adesso che contratti di affitto stipula? Tutti i dollari secca, anche se ho fatto un errore, perché in questo caso non è perdo parte per della detrazione IRPEF, però va bene. Roberto, sì. Un chiarimento sul canone concordato mi è un mondo sconosciuto. Aspetti lì, allora Rossi, ma la cedolare secca in realtà mi pare che abbia come contratto d'affitto dietro le spalle il canone concordato, mi sbaglio, non ho capito nulla? No, a entrambi. Il libero ha una rigoda del 21, il concordato al momento è 15 e potrebbe diventare il 10. Quindi cosa deve fare Roberto per... Allora, è emblematica questa telefonata, perché molta gente non è informata sul concordato, anche gli dati a cui faceva riferimento. Va bene, allora andiamo a raccontarlo, dottor Rossi. Prego. Andiamo a dare risposta a Roberto. Non c'è informazione, perché la cosa invece è abbastanza semplice. Ci sono degli accordi territoriali fatti dalle associazioni degli inquilini e dalle associazioni della proprietà, depositati presso il comune, nei quali vengono stabiliti i parametri per il calcolo dei canoni. Ce n'è uno pure per Parma, ovviamente, sono accordi vigenti in tutti i capoluoghi di provincia. E su questa base va fatto un contratto, che è un contratto di durata diversa dal libero, che è 3+2, quindi anche di durata minore. Il canone viene applicato sulla base di questi parametri, è abbastanza semplice, oppure ci si può rivolgere ad associazioni, a professionisti. Ecco, quindi intanto Roberto potrebbe andare presso la locale associazione dell'Unione dei Proprietari o Confedilizia o che cosa, ma anche... Anche insieme all'inquilino Alzunia, ovviamente, anche lì ci saranno le indicazioni, e può trasformare anche il contratto attuale, ovviamente, risolvendo quello e facendo poi un contratto. Secondo lei quando è che vale la pena fare il canone concordato? Quando appunto magari c'è l'idea che il rapporto tra proprietario e inquilino sia di durata inferiore alla media, di breve durata? Ma non è tanto questo, il problema è la forbice tra le pretese del proprietario in un contratto libero e quello che è il canone concordato. Però nelle medie città questa forbice è molto più ristretta e direi che il vantaggio fiscale che verrà assicurato col 10% indubbiamente è molto appetibile. Secondo me è più un problema di informazione. Certo. Io sono sicuro che il signor, non mi ricordo il nome, se si fa dei calcoli troverà conveniente il canale concordato, che tra l'altro con la cedolare secca gli dà altre garanzie, tipo non pagare l'imposta di registro. Ritengo che i suoi canoni possono rientrare tranquillamente all'interno di quei parametri che sono stati. Tornando alla questione che dal quale siamo partiti, un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666. Ho preferito non denunciare il mio proprietario di casa che non ha registrato la bozza del contratto, continuando comunque a pagare il canone pattuito tramite bonifico per garantire la tracciabilità. Ho informato un parente avvocato che mi ha consigliato di informare la proprietaria di casa tramite una scrittura privata che verrà presentata in caso di controversie. Può avere senso come strategia, però voglio dire, in questo caso penso che la proprietaria non tema nulla se accetta di farsi pagare il canone d'affitto con bonifico, Rossi. Ma francamente, oppure è una semplice dabbenaggine, perché in realtà quello è un contratto nullo al momento, se non è registrato. Cioè non è che la sentenza ha annullato 10 leggi, ha annullato 2 commi di una legge, certo, legislativo. Quello è un contratto nullo, che è pericoloso sia per il proprietario che per l'inquilino. Quell'inquilino lì, per esempio, la sentenza dice pure che c'è pure un obbligo dell'inquilino di registrare. Ecco, perché noi siamo qua martellando i proprietari, la responsabilità si suddivide in due. Comunque, detto questo, l'ascoltatore che oggi sentisse la trasmissione, da domani, per effetto di questa pronuncia della consulta, Rossi non può più andare a denunciare nessun proprietario, perché adesso nessuno lo accoglierebbe più. Giuseppe da Catania invece appunto solleva la questione molto diffusa in Italia, la scarsa trasparenza che c'è nella studenti nelle città universitarie. Giuseppe da Catania, che chiaramente non sanno bene come comportarsi con i proprietari, c'è veramente qua la giungla. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Sono io? Sì, e lei? Un saluto a tutti. Dica. Deborina e Nicoletta. Ci dica, veloce, tu, veloce, sì. Veloce, veloce. Io ho un appartamento grande che vorrei affittare a 4 studenti, facendo un contratto individuale. Ah, uno per uno? Uno per uno. Polverizzare in modo tale che se uno se ne va, lei si può prendere la briga di cercare un'altra persona che lo sostituisca. Esatto, e io non ho ancora affittato l'appartamento perché non so come fare, non riesco a trarre informazioni per non sbagliare e poi ricevere sanzioni. l'appartamento è vuoto e perfetto, e Giuseppe. Giuseppe, magnifico, così quando veniamo a Catania veniamo a Deborah e io. Ecco, che dice? A disposizione. Allora, abbiamo perso ormai il carro delle studentesse, però vabbè. Rossi, cosa può fare Giuseppe? È una buona idea, ma una polverizzazione di me mi dispiace dirlo, ma ha imboccato un po' la strada sbagliata. Perché moltiplica i costi? Perché io il contratto consiglierei di farlo a tutti i conduttori insieme, con solidarietà tra loro. C'è anche per questo un contratto agevolato previsto, che beneficia anche della cedolare secca ridotta, quello per studenti. E c'è una clausola che permette una disdetta parziale, cioè dire a uno solo degli studenti o due di ovviamente lasciare l'immobile, con impegno ad accettare un'eventuale ulteriore segnalazione che venga fatta dal proprietario per introdurre un'altra persona. Questa è la forma più di garanzia per entrambe le parti, perché frazionare il contratto significa frazionare anche l'immobile, significa anche calcolare la percentuale di appartenenza dei servizi comuni. Certo, chiaro. Quindi insomma suggeriamo al nostro ascoltatore di Catania di perseguire un'altra strada. Poi andrà la situazione della proprietà, gli verranno anche altri vantaggi che ha lui. Uno, per esempio, è che a quel punto ha quattro debitori invece che uno. Esatto. Allora, ci fermiamo adesso perché abbiamo i mercati, ma magari Nicoletta chiediamo un attimo di pazienza a due ascoltatori che sono in attesa, che sono Furio da Roma e Ugo dalla provincia di Venezia. Perfetto, Borsa, tra poco. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. La nostra casa è molto carina, ma lo è ancora di più se c'è un affitto conveniente e, perché no, anche trasparente. Voi siete in affitto da quanti anni e vi è mai capitato di pagare un affitto in nero? E avete avuto il coraggio di denunciare il padrone di casa e di godere dei vantaggi economici di un canone ribassato come previsto dalla legge? Raccontatecelo, ma fateci anche tutte le domande che vi vengono in mente sul tema degli affitti. Ne state stipulando uno? Avete ricevuto un avviso di sfratto? 800 24 00 24. Con noi Aldo Rossi, segretario nazionale responsabile dell'ufficio legislativo SUNIA, Sindacato Nazionale Unitario Inquilini e Asso e Assegnatari, con cui appunto affrontiamo il tema. Abbiamo tante domande dei nostri ascoltatori che ci hanno raggiunto al nostro numero verde. Debora. All'800 24 00 24. E chiaramente qua stiamo parlando delle modalità per tutelare gli inquilini, ma è chiaro che si stanno sollevando anche i proprietari, perché la fase di crisi sta alimentando appunto le difficoltà delle persone che non riescono a pagare gli affitti. Ugo dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Eccoci. Buongiorno. Senta, allora, io sono proprietario e avevo un contratto regolare con un inquilino. Sì. E alla fine questa signora non è riuscita a pagare per motivi che aveva perso il lavoro. Sì. Io non ho fatto sfratto, è rimasta per quasi un anno, però nei confronti dell'Agenzia delle Entrate devo pagare le tasse ugualmente. Certo. Anche mi sembra assurdo, anche perché ho una certificazione da parte di questa signora che dichiara che non mi ha pagato l'affitto. Ugo, allora, tra l'altro mi pare di ricordare, Rossi, ma magari mi sbaglio, è solo un sogno nella mia testa, che effettivamente in realtà qualche proprietario avesse il diritto di pagare meno tasse su canoni appunto non percepiti. O mi sbaglio, se riesce a dimostrarlo? Sì, ma purtroppo il signore è stato un po' vittima della sua umanità, indubbiamente, di cui ti do atto. Che cosa avrebbe dovuto fare? Perché quella norma a cui lei fa riferimento parla di contratti per i quali c'è stato uno sfratto, un provvedimento del giudice. Perché il fisco ovviamente purtroppo non si fida della dichiarazione della signora. Ora, invece quello è un caso veramente di morosità incolpevole, perché la signora ha perso il lavoro, quindi noi ci auguriamo che il prossimo decreto, che dovrebbe uscire, su cui il governo è in ritardo, nel senso che doveva essere pronto già da qualche settimana, perché è una norma che stava in finanziaria, quella del fondo. Certo, la morosità incolpevole, quindi lei l'ha definita. Ecco. Ci auguriamo che esca, non credo che però troverà una soluzione di questo tipo. Io però darei un plauso a un proprietario modello come il signore, che certamente mi auguro che da questo rapporto con l'inquilina possa venire fuori poi un discorso di recupero della regolarità. Quindi lei mi dice che se avesse intimato lo sfratto a questa persona, avrebbe con questo documento potuto andare all'Agenzia delle Entrate e quindi avrebbe potuto dare la dimostrazione che lui non riceve i canoni e pagare meno tasse. Per tutti i mesi che vengono indicati nel provvedimento del giudice. A Furio da Roma invece cosa è capitato? Furio, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci dica. Dunque, la questione è questa. Io sono proprietario di 4 appartamenti, affitto regolarmente, con contratti, rifiutando qualsiasi tipo di accordo diverso. Sì. È una premessa. Dunque, volevo però precisare che sembra pressione nei confronti dei proprietari quando anche gli inquilini che non stipulano i contratti hanno dei loro vantaggi evidenti. Ma è evidente, ovvio. Ad esempio, non pagano l'imposta di registro, non pagano rifiuti quali urbani. Ma certo, se ne possono andare quando vogliono senza dover dare bistette anticipate, ci sono tanti. Ma è evidente, Furio, che è un accordo tra virgolette. Un attimo. Elusione del redditometro, cioè in sostanza ci sono dei soggetti che vogliono stipulare i contratti al nero per eludere i controlli del redditometro. A parte che, come dire, il concetto di stipulare contratto a nero non si mette insieme, è proprio come, non mi ricordo adesso qual è il termine, sì, che indica due concetti che si contrappongono nettamente. Non esiste, sì, o c'è il nero e quindi non c'è nessun contratto. Okay. Furio, allora, no, ma capisco, diciamo, quello che lei dice. Io sto dicendo che gli inquilini hanno a volte dei loro vantaggi a stipulare i contratti a nero. Ad esempio il fatto di essere trasparenti al fisco in relazione ai canoni che stanno pagando. Certo, meglio. Ma Furio, è evidente che un proprietario non impone nulla, ma infatti l'abbiamo detto prima con Aldo Rossi, è chiaro che c'è anche una controparte che accetta, che gli sta bene, no? Rossi, di questo siete perfettamente consapevoli anche voi. Beh, no, il fenomeno va combattuto da entrambe le parti, ecco. Io lo dico che le obiezioni che faceva, le richieste, il discorso che faceva il signore, ha un suo interesse, che ci porta però ad inquadrare il problema del conflitto di interessi. Noi diciamo da tanti anni che effettivamente lo Stato, se vuole colpire il fisco, se vuole colpire l'evasione nel settore delle locazioni, che tra l'altro è un buco che se colmato consentirebbe anche di fare più case popolari, di intervenire di più sul settore, certo, delle manutenzioni, per fare questo, per colpire l'evasione, deve creare un conflitto di interessi tra proprietario e inquilino. Oggi però non si può ipotizzare, quindi per noi vanno benissimo tutte le norme che impongono anche all'inquilino di registrare, però non è altrettanto vero dire che sono paritarie le parti, perché l'appartamento ce l'ha in mano il locatore, no, il locatore se impone. Io ho assistito a casi e a molteplici casi in cui addirittura non viene data neanche la copia del contratto scritto all'inquilino. Vabbè, però l'inquilino può anche sempre rifiutare. Non è registrato, neanche scritto. Lo so. Quindi, diciamo, specie quando abbiamo casi di inquilini deboli, per esempio lo straniero, per esempio lo studente, per esempio la persona che viene da uno sfratto, che è costretta o da una separazione. Ci sono situazioni di marginalità molto delicate, però insomma tutto questo va combattuto. Allora, oggi parleremo però non solo di tutto questo, ma anche di inquilini bipedi, no, Nicoletta? Sì, degli inquilini a quattro zampe, generalmente pelosi, che vivono nelle nostre case in affitto di proprietà. E nonostante gli ultimi dati dell'indagine Eurispes denuncino un leggero calo della presenza di animali domestici nelle nostre case, insomma la crisi la pagano anche loro, nessuno può più impedirci di condividere il nostro tetto con un amico peloso. Lo dice anche l'ultima riforma del condominio. Sì, se non mi ricordo male è così, e allora le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Buongiorno all'avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di Assocond, l'Associazione Italiana dei Condomini. Eccoci a lei. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, è così, abbiamo detto correttamente, l'ultima riforma del condominio entrata in vigore il giugno dello scorso anno indicava questo, avvocato? Sì, indicava questo, al punto che si è parlato proprio della riforma degli animali, dei cani e dei gatti. La norma parla in generale di animali domestici e quindi il riferimento è sicuramente a loro, cani e gatti. Però stiamo attenti, perché è stato un legislatore un po' così disattento questa norma. Dettata in ultima analisi un comma aggiunto a un articolo 1138, in realtà non è poi così dichiaratamente inderogabile, perché ci sono magari regolamenti che lo vietavano prima. No? Quindi non è che la norma va a sopraffare questi regolamenti, perché la norma sappiamo che inizia ad avere efficacia dal momento in cui entra in vigore. quindi il problema si pone per quei regolamenti di condominio magari che prevedevano prima dell'entrata in vigore della norma il divieto di tenere cane e gatti. Adesso hanno dovuto essere riscritte queste parti di regolamento, avvocato? Se li devono guardare, perché se è un regolamento di tipo contrattuale, quindi il classico allegato ai rogiti fatti dall'unico proprietario che poi ha frazionato, ahimè, trattandosi comunque di un peso posto sulla proprietà, perché il limite limita la proprietà, deve essere sottoposto al vaglio però dell'unanimità, certo, dei consensi per essere modificato. Se invece è un regolamento assembleare votato dall'assemblea, allora con le stesse maggioranze che era stato votato prima, quindi con tanto per intenderci la metà del valore dell'edificio, la maggioranza dei presenti in assemblea, può essere modificato e quindi la norma può essere tolta. Sta di fatto che da ora in poi gli animali possono starsene liberamente in condominio. Certo, sperando che uno non abbia un elefante in casa, perché in quel caso lì sarebbe un po' complesso. No, tra l'altro, l'elefante non è previsto. Proprio questo caso, volevo ricordare, è inserito alla voce animali domestici nel primo dizionario della vita pratica, che è in edicola oggi con il Sole 24 Ore. Peraltro è un'iniziativa con la quale, senti questa Nicoletta, il Sole 24 Ore festeggia i 30 anni della rubrica L'Esperto Risponde. È longevo? Pensate. È lunga vita al Sole 24, quindi oggi in edicola c'è il primo dizionario, che chiaramente non è sugli animali domestici ma è più complessivo sul condominio, come ridurre i costi della vita in condominio e come risolvere le liti. Avvocato, che anche per gli animali sono. Avvocato Cirla, prima di dare la parola alla nostra esperta, la dottoressa Lorella Notari, veterinario comportamentalista, che ricordo agli ascoltatori è a nostra disposizione, rimarrà con noi sino al termine della puntata per parlare della convivenza molto stretta che abbiamo con i nostri amici a quattro zampe. Avvocato, ricordiamo che il proprietario, chi detiene il cane, sono a qualsiasi titolo responsabili penalmente e civilmente dei danni provocati dall'animale, quindi è sempre il proprietario responsabile del benessere, del controllo, della conduzione dell'animale, e risponde dei danni e lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso, anche in condominio, avvocato. Certamente, perché il fatto che adesso animali possano entrare liberamente nel condominio non fa certamente venir meno l'obbligo del condomino, del proprietario, che sia esso anche magari inquilino, di rispettare le regole del buon vivere civile, del rispetto dell'altrui diritto, e quindi l'animale non deve essere lasciato libero sulle scale, negli spazi comuni. Deve essere portato al guinzaglio negli spazi comuni. Certo, perché così come esiste il diritto degli animali a stare in condominio, non dimentichiamo che ci sono anche condomini che magari degli animali sono un po' spaventati, come detto, eccetera. Tutto ne hanno paura. È pazzesco, esatto. Però sembrano tutti suggerimenti di buon senso, ma in realtà poi ne viviamo di tutti i colori all'interno dei condomini. Interviene sempre il giudice molto più spesso, frequentemente negli ultimi tempi proprio sugli animali, perché pazzesco. È una norma che viene magari fraintesa, questa nuova. Ecco, stiamo attenti. Stiamo attenti, grazie all'avvocato Cirla. Grazie, noi anche andiamo. A Aldo Rossi. Grazie a entrambi. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade a tra poco, per parlare dei nostri inquilini pelosi. Cuore e denari. Non vivevano in un condominio ma in una villetta i cani che ieri hanno aggredito a Bari una donna di 58 anni e il suo nipotino. Secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Bitonto, la donna avrebbe fatto da scudo al nipotino, che ha riportato ferite guaribili in 20 giorni ed è stata aggredita. Questi fatti di cronaca purtroppo non sono isolati, e allora vogliamo proprio parlarne oggi, iniziare questo nostro spazio dedicato alla relazione che teniamo con i nostri animali, insieme alla dottoressa Notari, perché vogliamo capire che cosa spinge un cane abituato a vivere in famiglia a diventare pericoloso al punto da aggredire il suo padrone, a trasformarsi in un killer. Episodi come quello che abbiamo citato potrebbero essere evitati, oppure c'è sempre un potenziale rischio, dottoressa Notari? Ci sono dei segnali, delle situazioni che rischiano di trasformare una convivenza pacifica in una convivenza a rischio? Sì, buongiorno a tutti. diciamo che dei segnali ci sono sempre, bisogna considerare che non sempre che sono dei segnali che sono alla portata del proprietario medio. Sì. In generale, per esempio, questo episodio, non so niente di questo episodio, però c'è una grande differenza tra un cane che vive in casa, cioè che vive la quotidianità con noi da tanto tempo, rispetto a un cane che viene tenuto in giardino. Quindi i campanelli d'allarme vanno sempre ascoltati, anche un ringhio è un campanello d'allarme, un cane pauroso è un campanello d'allarme. Quindi tutte le difficoltà che il cane ci mostra, la mancata fiducia nei nostri confronti, se un cane mi ringhia perché lo tocco, perché tocco il suo cibo, perché gli impedisco di fare qualcosa, la prima cosa proprietario che devo pensare è: questo cane non ha fiducia in me, perché? Che cosa sta succedendo? Quindi guardiamo il cane che abbiamo e non il cane che abbiamo in testa come immagine di cane. Questo è il primo consiglio, perché non tutti i cani sono uguali, non è sempre colpa dei proprietari, però è colpa dei proprietari se trascurano i campanelli d'allarme. Quindi tutte queste cose, il ringhio, opporsi, il cane che la non paura ubbidisce. Il cane che non ubbidisce può essere semplicemente un problema di gestione, non necessariamente. Poi vorrei non essere allarmista, guardate che ne succedono pochissimi di questi ne episodi. Succedono pochi, ma allarmano. E quindi in una puntata in cui volevamo invitare i nostri ascoltatori a parlare degli animali, non potevamo non partire da questo fatto di cronaca. Dottoressa Notari, e protagonista di questo fatto di cronaca dei cani di una razza che viene considerata molto pericolosa, la domanda è questa: poteva capitare anche con un meticcio, oppure ci sono razze che erano state inserite nel famoso elenco che devono essere tenute con una particolare attenzione da parte del proprietario, in cui il proprietario deve sapere che si sta allevando un Rottweiler, che è un cane che sa dare tantissimo affetto, mansueto, ma ha un'indole tale che potrebbe esporre a questo rischio. È così, dottoressa Notari? Perché sappiamo che le persone un po' a riguardo si dividono, ma quello è un cane pericoloso, bisognava saperlo, e ci sono tante le razze che vengono considerate sia dai proprietari degli animali che da invece persone che con i cani non hanno nulla a che fare, pericolose. Lei che dice? Che nessun cane è una tabula rasa, quindi non è vero che qualsiasi cane può essere gestito, se gestito bene non darà problemi. Ci sono cani che sono stati selezionati da noi e quindi non sono prodotto della natura, quindi non è questione di essere razzisti, perché le razze le abbiamo fatte noi, sono stati selezionati da noi per avere una funzione, e quindi il cane da guardia e da difesa naturalmente è un cane che richiede una certa attenzione, richiede anche un proprietario esperto e le risorse di spazio, di tempo, le barriere giuste, e questo purtroppo qualche volta non viene considerato. Quindi non sono mai i cani di per sé, però non bisogna anche dire che è sempre colpa dei proprietari, nel senso che ci sono cani con problemi, ci sono cani fobici, ci sono cani poco socializzati. Le razze significano specializzazione, quindi io mi aspetto che un cane da caccia sia bravo a cacciare, che un cane da guardia sia bravo a fare la guardia, tenda a reagire a stimoli inaspettati. E poi c'è un fattore enorme, cioè il fatto che se questi animali sono deprivati della possibilità di mettere in atto comportamenti normali, quindi socializzare, uscire, muoversi, essere stimolati sia fisicamente che mentalmente, questi cani svilupperanno una patologia da stress e quindi saranno più imprevedibili. Dottoressa Notari, lei ha detto socializzare, uscire, muoversi. Molte persone hanno un giardino e quindi tengono il cane in giardino, e con questo sono assolutamente certe di assicurare all'animale una vita molto più felice rispetto a quella del cane di appartamento, ma molti proprietari non fanno mai uscire il cane dal loro giardino, e questo giardino alla lunga per il cane può essere considerato una sorta, lo metto tra virgolette, di gabbia. È così? Allora, Sì, può essere un'interpretazione sicuramente, soprattutto in questi giardinetti molto piccoli di villette a schiera, eccetera. E poi consideriamo che se tu lasci sempre un cane fuori, quindi la possibilità, soprattutto nel nord Italia, di interagire con lui giorno per giorno, quando fa freddo, è molto bassa. Il cane, anche se ha una tendenza da guardia, si impossesserà di quel territorio, quindi avrà delle reazioni quando o un estraneo oppure anche un elemento della famiglia da cui lui vuole difendere questa risorsa, perché esiste anche questo aspetto, no? Quanti cani ti arringhiano se gli tocchi la ciotola e non sei tu che gliela metti a disposizione? Allora perché ti stupisci se ti aggrediscono se esci nel giardino in cui lo lasci solo magari 23 ore al giorno tutti i santi giorni? 800 24 00 24, un messaggio al 349 238 6666. Deborah ci dice: sono sempre meno pericolosi dei mariti e dei fidanzati. Eccolo là. Ma Marisa ci chiama da Bologna. Buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno. Velocemente volevo ringraziarvi per la vostra competenza ed eleganza, vi ascolto spessissimo ed ecco il mio quesito, che non è forse meno cruento di quello di cui sopra parlavate. Allora, io desideravo sapere quali detergenti e anche soprattutto come usarli per pulire le copertine, per esempio, della cuccia, o detergere i pavimenti, perché mi sono resa conto che lasciano, non sciacquandoli, ma se uno poi li sciacqua i batteri e gli agenti le micosi che potrebbero scatenarsi. Sì, deve andare un po' rapida, rimasto. Marisa. Lasciano una patina bianca nel pavimento. Allora volevo sapere qual è il modo migliore per pulire, appunto, sia le cucce sia le cucce, e lo chiederemo alla dottoressa Notari, che ha tempo di pensarci per tutta la durata del GR. Tra poco. Cuore e denari. Italiani su 10 vivono con un animale in casa. Non parliamo di suocere, ma di pennuti, perché arrivano già molti messaggi sulle povere suocerine. Pennuti, animali pelosi, micio, il cane, oppure in alcuni casi il gatto e il cane insieme. Questa convivenza di cui vogliamo parlare oggi, a volte, come nel caso di Bari, può esporci a dei rischi molto alti, ma nella maggior parte dei casi, non possiamo dimenticarlo, è fonte di benessere. Chi vive con un gatto, con un cane, lo sa bene. 800 24 00 24. Oggi in studio con noi la dottoressa Notari. Dottoressa Notari, ci eravamo lasciati sul detersivo. Sì. Quindi oggi la vogliamo qua anche un po' come massaia. Come massaia, sì, ma me lo chiedono spesso. Diciamo che, brevissimamente, il vapore, ovviamente, visto che la signora citava le micosi, è la cosa migliore. Poi dopo c'è l'altro aspetto, togliere l'odore per quegli animali, soprattutto gatti, che tendono a sporcare fuori dalla cassettina. Mm-hmm. In questo caso detergenti organici, quindi evitare la candeggina, l'ammoniaca, ma usare magari l'isoform, questo tipo di detergenti, pulire bene, asciugare bene ed eventualmente poi passare alcol puro, qui quello a 95 gradi, quello bianco che si usa per i liquori, e quello toglie l'odore, certo che rovina un po'. Certo. Quindi diciamo vapore per la pulizia normale e per togliere l'odore questa procedura, no ammoniaca, no candeggina. Torniamo quindi alle storie di ordinaria e pacifica convivenza. Tra l'altro molte ricerche dimostrano che vivere con un animale faccia bene alla salute, e questo al di là del nostro coinvolgimento emotivo. E quando parlo di ricerche, noi pensiamo subito alla dottoressa Deborah Giovanna Luini, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi l'abbiamo fatta cimentare in un campo che davvero non pensavo. Però io che conosco bene la dottoressa Luini, lei ha un papà e una mamma che vivono con quanti cani? 8 cani, un numero di gatti enorme, ma anche perché ogni volta che qualcuno purtroppo abbandona un cane o un gatto, sa già dove portarli. Sì, sì, quindi hanno spazio però naturalmente. Sì, sì, hanno lo spazio. Poi ho una sorella che proprio è innamoratissima degli animali e alleva cani, fa gare, insomma, quindi è un ambiente ideale. Ce l'avete nel DNA, insomma, questa passione. Devo dire che anch'io in passato ho avuto periodi di grande affollamento di gattini in casa, poi con gli anni non abbiamo più avuto modo, però sono delle belle specie. Dottoressa Luini. Sì, mi avete fatto studiare, però ho scoperto cose bellissime, al di là in effetti del coinvolgimento emotivo, come diceva Nicoletta, ci sono tanti dati che dicono che una convivenza positiva con un animale domestico porta a tanti benefici per il corpo. Alcuni esempi: la regolarizzazione della pressione. A quanto pare la pressione, soprattutto in chi soffre di pressione alta, tende a essere più regolare e un po' più bassa. Il ritmo cardiaco, che diventa un pochino più calmo e più regolare. La produzione di vitamina D. Addirittura? Sì, perché chi tiene bene i propri animali ha anche cura di portarli un po' fuori, di farli vivere un po' all'aperto. E allora, tenendoli all'aperto, cosa fa? Esce. E il fatto di stare all'aperto è molto utile al padrone dell'animale domestico per la produzione di vitamina D. Questo è documentato dagli studi, è vero. E poi c'è l'attività fisica, perché quando io esco con i cani o comunque esco in giardino con i miei animali domestici e mi faccio la passeggiata, mi muovo e raggiungo quel tot di passi che mi serve per mantenere la salute fisica. Ci sono anche alcuni dati che volevo citare sulla maggiore igiene nelle case dove ci sono animali domestici, la migliore regolarità per esempio nei pasti anche della famiglia, quindi non solo degli animali, e l'importanza psicologica e fisica di occuparsi di qualcuno. Occuparsi di qualcuno per noi è fondamentale, c'è una parte del nostro cervello che è strutturata per questo, occuparci di qualcuno generosamente. Avere l'animale domestico, soprattutto per chi è solo temporaneamente o in modo prolungato, è molto importante perché aiuta quella parte del cervello. Dottoressa Luini, altro che mela al giorno, alla luce di questa copiosa mole di ricerche sembrerebbe che sia la convivenza con un animale a togliere il medico di torno, ma lei non vada troppo lontana, torni presto a trovarci, intanto noi la salutiamo, la ringraziamo per essere stati a Cuore Denari. Grazie dottoressa Luini. Buona giornata, a presto. Grazie, due belle domande di due belle domande, a meno che tu non abbia altre domande invece per la nostra veterinaria. Con la dottoressa Notari noi vorremmo parlare anche, oltre che di relazioni, e questo è molto importante perché proprio con le domande dei nostri ascoltatori cercheremo di capire come, che tipo di relazione abbiamo con il nostro animale, se la sua è una la convivenza è una convivenza serena, ma vorremmo parlare anche di zoonosi, perché ci sono anche delle infezioni che possono trasmettersi, che possono passare dall'uomo all'animale e dall'animale all'uomo, per cui se avete dei timori, dei dubbi, se volete parlare, il cavallo di battaglia di solito quando si parla di animali e soprattutto di mici è la toxoplasmosi, che fa così paura alle mamme che aspettano un bambino. La dottoressa Notari è qui pronta per rispondere alle vostre domande. Ma Deborah, andrei agli ascoltatori, ne abbiamo pescati due che ci hanno colpito molto per quello che vogliono raccontarci, particolarmente Maurizio da Fermo. Benvenuto all'800 24 00 24. Eccoci Maurizio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Io ho un cane guida. Sì. Sono non vedente. E vivo in simbiosi col cane. E certo. Quindi dalla mattina, da quando mi alzo fino a quando a dormire, viviamo insieme, più col cane che con mia moglie. E quindi però ultimamente il cane si lecca la zampa davanti e si è provocata una ferita. Piccino. E non so il motivo. Grazie Maurizio. L'alimentazione è sempre grazie la stessa, Maurizio, perché questa è una bellissima domanda per la dottoressa Notari, che ci può dare delle indicazioni che possono essere utili ai proprietari di cani che si ritrovano in una situazione simile. Dottoressa Notari. Buongiorno Maurizio. Allora, diciamo che questo è sicuramente un caso che lei dovrà sottoporre al suo veterinario, il quale poi deciderà se inviarlo a un collega esperto in comportamento, perché il cane si può leccare la zampa per una serie di motivi. Potrebbe avere un problema dermatologico, potrebbe avere anche una neuropatia periferica, cioè sentire delle sensazioni sgradevoli e avere la necessità di... potrebbe avere un problema di tipo ortopedico, oppure potrebbe leccarsi la zampa come attività sostitutiva, cioè per qualche motivo il suo cane è, diciamo, stressato tra virgolette, c'è qualche cosa nel modo di gestirlo, nella sua vita, nella relazione con voi, che gli stimola la necessità di fare qualcosa che apparentemente non ha senso. Quindi, diciamo, la prima cosa, uno screening sulla salute, e poi eventualmente valutare il benessere del cane. Che addirittura può sentirsi sovraccaricato di responsabilità. Stavo pensando un po' a questa cosa. Esattamente, purtroppo qualche volta capita di sovraccaricarli, e questo per loro è molto stressante. 800 24 00 24, ci chiama Emanuela da Torino. Benvenuta Emanuela. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono una nonna per niente apprensiva in generale, però la situazione che si è creata da mio figlio e mia nuora mi spaventa moltissimo, perché appena sposati hanno preso, per evitare che andasse a finire al canile, un cane che è un incrocio di beagle e direi dog di Bordeaux, cioè abbastanza mastino. Sì. Allora, mia nuora aveva un gatto. Da quando è arrivato in questa casa, che è un giardinetto piccolo, il cane è sempre stato al di fuori della casa, perché la volta che è riuscito a entrare si è preso col gatto e è uscito con un'unghia del gatto nel muso. Adesso però sa Emanuela che cani e gatti non è che proprio vadano d'accordissimo, se non in alcuni casi in famiglie, con, ad esempio dalla dottoressa Notari, convivono benissimo, ma i primi incontri qual era il problema, Emanuela? Non mi preoccupa, è che hanno una bambina di 4 mesi. Questa porta potrebbe rimanere per errore aperta un giorno, questa porta che dà dal giardino, e io penso che questo cane, che viene legato ogni volta che escono col passeggino e tutto, se per disgrazia rimane aperto, certo, la mia nipotina può finire scaraventata, morsa, qualsiasi cosa. Mio figlio dice no, non l'ha mai dato problemi, segni. Però Emanuela, però un cane che non ragiona, non lo so, a me sembra una cosa... Soprattutto Emanuela ci fa notare che ad esempio il cane viene tenuto legato tutte le volte che la coppia esce con la bambina. Noi inconsapevolmente forse diamo dei messaggi al cane che possono poi ritorcersi contro. Dottoressa Notari. Allora, diciamo che ci sono delle regole che devono essere sempre rispettate, cioè bambini e cani devono essere gestiti in sicurezza, soprattutto i bambini molto piccoli. Quindi in questo caso io suggerirei alla sua figlia e al suo genero di organizzare una barriera, in modo che il cane non debba essere legato. Qualche volta si può separare il giardino in due, qualche volta costruire un grosso recinto dove però il cane non viene messo solo quando esce la bambina, ma magari viene messo per avere un gioco da rosicchiare, per interagire un po' col proprietario, in modo che si abitui a vedere questa bambina senza che voi siate preoccupati. E questo è molto importante, perché se il cane vive in giardino, per lui la bambina è una novità molto grossa. Quindi separazione sicura, dopodiché niente angoscia, fatelo abituare. Se ci sono problemi, subito un incontro con un veterinario comportamentalista, che vi darà tutte le indicazioni per gestire il cane in sicurezza e per abituarlo, perché la bambina crescerà, è una bambina di 4 mesi, non è una bambina di 1 anno, non è una bambina di 5 né una di 10, quindi vi darà tutte le informazioni necessarie. A proposito di bambini, allora, la citata bambina nel caso in questione ha 4 mesi, però ci sono bambini un po' più grandi che sono molto affettuosi con gli animali. Allora, ci sono genitori addirittura apprensivi in questo senso, no? Se temete che il vostro bambino sia troppo affettuoso, confido, cosa fare? Oppure siete una futura mamma e volete sapere, lo dicevamo prima, tutto sulla toxoplasmosi. Avete sentito dire che cambiare l'acqua dei pesci porta in agguato il rischio salmonella? Il vostro compagno, magari quello nuovo, è allergico al pelo del vostro gatto? Io direi cacciatelo immediatamente di casa, scegliete un altro fidanzato. Sapendo comunque che molti di voi vivono con uno o più animali in casa, questa potrebbe essere una buona occasione per ripassare qualche buona regola e capire qualcosa di più della relazione che ci lega con i nostri amici a quattro zampe, ma non solo. 800 24 00 24, di quale rinfrescata di regola avete bisogno? Dottor, io parlerei proprio di zoonosi, e tra le più temute c'è la toxoplasmosi, un'infezione causata da un parassita, giusto? Il toxoplasma gondii. Con due I, è una malattia che però una volta contratta lascia un'immunità permanente, no? E spesso non ci si accorge nemmeno di averla avuta, però se presa in gravidanza può essere rischiosa per il bebè, tanto che già prima del concepimento il ginecologo ci fa fare un semplice test, il toxotest, che ci rileva la presenza degli anticorpi. Bene, se l'esito è positivo stiamo tutto tranquille, se no devi ripetere l'esame, tra l'altro l'esame è a carico del Servizio Sanitario Nazionale per tutta la gravidanza. Questa è una notizia che piace anche alla donna di denari. Spesso però, dottoressa Notari, sono i gatti i primi contro i quali si punta il dito e spesso vengono allontanati da casa perché si teme che il gatto passi la toxoplasmose alla mamma, alla futura mamma. C'è da fare qualche puntualizzazione. C'è da chiarire, il grosso messaggio è: non allontanate il gatto. Allora, prima di tutto, se la mamma è negativa, perché se è positiva quindi ha già contratto l'infezione, ha già sviluppato un'immunità, non ci sono problemi. Se la mamma è negativa e ha un gatto domestico in casa, dovete sapere che se anche il gatto fosse in quella fase in cui emette le oocisti infestanti, queste oocisti diventano infestanti dopo una giornata e quindi se la cassettina viene pulita da qualcun altro o dalla mamma con i guanti e viene pulita tutti i giorni, il rischio è zero. Comunque è molto raro che i nostri gatti siano in una fase infestante, se sono gatti che escono può anche darsi, però con questa accortezza, attenzione invece a lavare bene le verdure e non mangiare carne cruda. Quindi è vero che il gatto è l'unico animale domestico in grado di trasmettere la toxoplasmosi, ma con queste accortezze nessun rischio per chi ha il gatto in casa. Ecco, tra l'altro è interessante il tema della trasmissione reciproca, perché io per esempio negli anni, pur amandoli molto, un po' di allergia all'epitelio del gatto l'ho sviluppata, dottoressa, ma quali sono al contrario quelle che noi possiamo trasmettere ai nostri amici, pelosi o meno? Adesso non dico al pesce rosso perché mi sembra un po' improbabile. Allora, diciamo, però, nella mia carriera mi è capitato di vedere una rogna trasmessa da un proprietario che era andato in ambienti esotici e poi l'ha passata al cane, una rogna particolare. Le quindi micosi, era evidente che responsabile fosse le micosi lui. Che come sapete possono avere i bambini piccoli, i bambini delle elementari, dell'asilo, che possono prendere dagli altri bambini, possono essere trasmesse agli animali. Quindi diciamo sono abbastanza, ci sono dei parassiti intestinali che in teoria, se il cane dovesse mangiare le feci, potrebbero essere, però è molto raro. Diciamo anche che è molto raro il contrario, cioè molto raro che gli animali ci passino malattie. È 100 volte più rischioso per un bambino uscire di casa e andare a una festa di amichetti che non avere il cane o il gatto in casa. Però l'avevamo promesso, dottoressa Notari, insieme a Deborah e a me, facciamo l'appello agli ascoltatori che portano in giro. Bravo, raccogliete le cacche. Lo diciamo di nuovo, raccogliete le cacche. Per favore, perché poi anche il proprietario di cani che raccoglie quella del suo rischia di pestare quella degli altri e ci si imbufalisce. Enzo da Roma, Nicola da Verona, ci sono tantissimi ascoltatori, molti ascoltatori di Cuore Denari proprio amano gli animali e questo ci fa molto piacere. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Senta, io avevo avevo bisogno di un consiglio. Allora, ho tre cani. Tra virgolette anche due gatti, tre cani, tre trovatelli, due meticci di media taglia, e l'ultimo trovato, che aveva 3 mesi e mezzo quando l'ho trovato, è un pastore tedesco al 95% puro, che adesso ha 7 mesi e pesa 40 kg, perciò è siamo un vitellino. La domanda, Enzo? La domanda è: siccome l'ultimo arrivato ringhia al primo addirittura non lo so, si sono acchiappati già 2 o 3 volte e qualcuno mi ha detto che bisogna farli sterilizzare perché sono 3 maschi. Dottoressa Notari, abbiamo poco tempo, un'indicazione? Sì, l'indicazione è prima di farli sterilizzare, perché come ben saprà, se toglie certi ammenicoli poi non si possono rimettere. Sicuramente una visita con un veterinario comportamentalista, c'è la possibilità di fare un test, quindi una castrazione chimica, per vedere l'efficacia, e poi c'è tutta la dinamica tra i cani da vedere. Grazie alla dottoressa Notari, le domande sono davvero tante, potete scriverci a Cuore Denari perché noi le passeremo alla dottoressa Notari. Vi ricordiamo che abbiamo un'agenda molto affollata. Esatto, allora intanto entro stasera completati i racconti degli incipit della nostra iniziativa Cuore Denari Vitali. Poi, per la parte cuore polifenoli, per la parte denari trimestrale. Le parole da inserire. Poi domani c'è la puntata della scuola di risparmio, vi faremo chiarezza su tutta la nuova tassazione che arriva dal 1 luglio. Giovedì siamo, intanto mi sto strozzando con la gola, aiutami. Brava, allora giovedì saremo a Roma. Mm-hmm. No, a Bari. Mi ha fatto uno scherzetto, se eravate stati attenti, che Carmelo Lauricella ci dice che dobbiamo salutare. E allora ciao a tutti, a Deborah domani. Si sta strozzando, ma domani bene, torna, grazie. Cuore e denari.